Sente, la radio di Ciro, perfetta, ottima, tantissima. Sono poco aperto per Rosilo. Giulio, riprendi. Tu già non stai mangiando. No, io mangio agli orari precedenti a quelli di Marco, dunque molto, ma molto precedenti però, non poco, a livello di mezza giornata, in poche parole, in avanti sono io. È come dall'Italia all'America, così, lo stesso fuso della mangiatoia abbiamo. Vabbè, dai. Ma a me non mi dici niente, come sto uscendo, Tonino? Non mi dici niente a me, non mi dici mai niente. Ma quando mai? Non mi vuoi vedere proprio, caspita. Sei incredibile, sì. Io non te lo dico perché ti sento bene, sicché non c'è motivo di dirti niente. Ecco, io la penso così. Mare miserie macchio, avanti. Idem, se l'ho detto voi, lo dice che vanno bene. Segnale, l'ultimo radio 5 Super 5. Cosa ti devo dire, Giulio? Io stavo per ridere poco fa. Avanti, buonasera, io buonasera. Avanti, buonasera, buonasera. Vedi la risa, comunque. Vabbè. Allora, siccome ti conosco, e dunque, so, ti ho augurato un bel 14 al tuo calcio, lo sei contento, così almeno ne fai parte anche agli amici, visto e considerato che sarà sicuramente una bella vincita, e tu non la vuoi ascoltare o non mi hai capito, caspitina. Io non vinco mai al tuo calcio, perché intanto non ci gioco, per cui ti puoi immaginare, non posso vincere, è impossibile, però se tu giochi al tuo calcio un bel 14, guarda, ci sarebbe molto bene in periodo di Covid. Cosa dici, Tony? Ma sinceramente non so neanche più se veramente si vince con 14, prima era con 13, se è cambiato non lo so. Non gioco mascherina, è come che ho fatto 13 da quando sono nato, perché grazie a Dio me sono una che pensione con bei contributi. Per me siamo 13 con lui a 14, come vuoi farlo andare, capito, Giulio? Quindi sto già bene così e non pretendo di più, mi basta il mio, tutto qua. Perché io mi riferivo, Tony, al saluto che si fa a Sassari, salute è 13, no, io dico adesso salute è 14, perché il 13 c'è, ma è di bassa sostanza, adesso si vince con 14 al totocalcio, quello, io intendevo quello, forse tu non c'eri arrivato al saluto di Sassari, dai, al saluto sassarese, saluto è 13, diziani una volta, i sassaresi, io adesso invece l'ho rimodernato, salute è 14, così la vincita è migliore. Va bene, facciamo girare. Avanti Antonio Bombolo. Antonio Bombolo si è spaventato e se n'è andato perché la vincita era troppo alta. Avanti Francesco. No, non è per quello, no, perché stavo rispondendo al telefono, stavo rispondendo. Non è perché era troppo alta, no. Allora il discorso è diverso. Va bene, tu dai, facciamo girare, adesso è aumentato comunque, che hai messo in funzione il macinino, adesso è aumentato il segnale, va bene, ti sento molto meglio. Avanti Francesco, usilo. Non stai parlando mica di ieri, no? Ma sono 30 anni fa, 35, boh, non mi ricordo neanche più. Non mi ricordo, sinceramente, ora, non lo so. E che vuoi che ti dica? Hai celebrato l'animale, mi fa piacere. Io sto usando questo Tarme Super Sedilica, la perla nera del Tarme più 3, e mi sta dando abbastanza soddisfazione. Tutti mi danno Radio 5, perfetta, andrà bene. Avanti, va. Perfetto, la prima volta che passato la carica è stato importante, però loro allora hanno fatto la preparazione, grazie a Dio, a posto di me, che non c'è nella posta, si sono messi a posto, però non c'è più la soffocazione, cioè, non c'è più la cifra di diciamo il danno con la pelle, ma adesso che forse me l'hanno confermato qua in sequenza, e niente, tutto qua, erano qui, rosse. Perfetto, oggi va a tutti gli iscritti che io sono passato purtroppo lì a dare una controllazione a vedere quella dietro con la scapola assemblata sul microfono. Cosa vuoi fare con me? Non l'ho capito bene, oh Francesco. Intanto se non potete controllare vedere cosa ha fatto quello lì che non sa gli acuti che aveva filo al microfono. Ah beh, non lo so cosa vuoi che ti dica. Non lo so, quello lo devi vedere tu, io il tale più treccio l'ho messo da parte perché mi era caduto una volta e dunque da quel giorno l'ho messo da parte e non l'ho più usato, per cui non lo so, non va bene quello che sto usando adesso, non c'è problema, avanti ancora Francesco, vai. Esperto dell'elettronica, quindi la vedo chiaro vedere cosa stavo l'hanno combinato, dico sicuramente risposta, a posto di mettere fino al tuo ne hanno messo un'altra, poi magari hanno approvata, perché poi ne ha messo una qualsiasi cosa. Più in carne con il microfono, diciamo, da tavolo normale, basta, non è più, diciamo, la sua, non so, tutta come deve esserla, diciamo, così. Va bene, riprendi con il tuo cambio. E capo bianco per me, dai, ce la risentiamo dopo, più tardi se coincide, che io devo chiudere. Ok. Ok Antonio, buon condizio allora, ci sentiamo. Tu cosa stai usando adesso, ora? Posso usare il quale senso? Il mio apparato. Giulio sono impegnato Tony al telefono, scusa. D'accordo, buona massa. Capito Francesco? Con il telefono tornando da 1908, non so, il telefono ci ha abbinato alla parità, capito, c'è il frequenzimetro, giusto? Come ho capito? Hai anche il frequenzimetro. Bene, parino ci Grazie. sotto. Vabbè, visto che non sono suonato, o Giulio ho fatto in basta, ecco. E chi è costui che ti ha preso il microfono e te l'ha più tornato? Uno che abitava in zona di Stanica. Uno che abitava in zona di Stanica. Possiamo chiamare tutti i capi. Allora è Stefano. Bravo, bravo, io non ho fatto il nome per Stefano è a Umbria, vive a Umbria, viene molto quando può, diciamo, trovare il padre. Ed è il Dalmacco tutto lì, capito? Io ce l'ho visto da poco, ci siamo presi il caffè insieme, quando sarà? 3-4 giorni fa, non di più. Sì, abita a Umbria, però lui non è che più 27, lui è un M, capito? Ha il patentino e trasmette il 144. Ok, ma gli apparati no, non accendono, non tengono le femmine, uno, due anni che poi si guastano, tutte le cose sono così, capito? Niente, io non vendo niente, io scambio e boh. E anche questo grazie con il microfono che sto usando adesso, se riesco a scambiare con un apparato consistente, insomma, che un po' piccolo di emissione di questo che ho adesso, questo è il mastodontico, sto ce l'ho in fissa. Certo, mi vuole un po' ripicciolirmi la stazione, sono troppo grande, capito? Ora. Per la riflessione, o per il caffè, dove arrivo io mi ci metto a fare qualcosa, già non si fa tardi. Ok, ci sentiamo la prossima. Stammi bene, non proseguo. E ci sentiamo. Ciao, ciao, più tardi se ci sei, ci facciamo qualsiasi pazienza. Ok? Ciao Tony, sono impegnato, scusa, ma sono impegnato, ci sentiamo un altro momento, ciao. Ok, Giulio, tranquillo, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Radio, sono impegnato, ci sentiamo un altro momento, dai, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao. Chi è avanti? Attenzione 10, c'è qualcuno in ascolto, cambio.